Quando l'autunno spegne la foresta, correrai qui dove la vita è festa. Ti metterai una pelliccia viva e parlerete della caccia estiva. Tu e la volpe zoppa, non si Tarzan né Zarathustra e nemmeno San Francesco, sei Marta che ha scelto il bosco. Pioggia lava madre terra, correrai qui dove la vita è serra, ti siederai sotto il paziente fico e parlerete di un veleno antico. Tu e la foglia gialla, non sei Gandhi né naturismo e nemmeno Kundalini, sei Marta dei contadini. Verrà qui per braccarti prima che il lupo corra ad avvisarti, con i giornali, le sue radio e il casco, coi lacrimogeni dentro il tuo bosco. Non avrai più scampo, non sei scienza né carosello e nemmeno fantasia, sei Marta della pazzia. The wall.